Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:09 minuti inizia un'altra puntata, grazie, questo che siete il pubblico di Bari. Siamo nella sede di Italy e sarà una coincidenza, ma ieri Italy del nostro ospite Oscar Farinetti, più volte in questo programma Italy inaugurava la sede a Milano, noi siamo nella sede di Bari, a dimostrazione che in realtà c'è un sud che è molto vicino al nord anche nei consumi e negli investimenti che vengono fatti. Lo dico perché chiaramente anche oggi è una puntata di Passione Sud, dopo la campagna la settimana scorsa e la volta della Puglia, poi ci sposteremo in Sicilia sempre utilizzando il doppio binario che ha lanciato questa iniziativa di Radio 24, ossia la crisi che ha messo in ginocchio il paese ha colpito ancora più duramente nel sud, sia come dati sulla disoccupazione sia come dati sui consumi e sugli investimenti, però sempre nel nostro sud, che poi in realtà è generico chiamare sud, dovremmo chiamarlo i nostri mezzogiorni, i nostri sud, la Puglia non è la Campania non è la Sicilia, lo diciamo ogni volta, e poi all'interno delle stesse regioni vi sono realtà molto diverse, ma dicevo, ciò nonostante la crisi e la recessione abbia colpito qui più duramente, esistono ancora molti casi di eccellenza, di imprese che aumentano i fatturati e fanno investimenti, di investimenti esteri che arrivano, e quindi la lettura non è solo il piangersi addosso o chiedere genericamente l'aiuto dello Stato, ma è capire che cosa nel concreto, come abbiamo già fatto anche in Campania, si possa fare. Usiamo le grandi città perché diciamo, sono i capoluoghi regionali, quelli da cui dovrebbe partire poi l'iniziativa guida e leader, che cosa fare nel concreto, nel caso specifico della Puglia e di Bari. Vi dico già che parte delle richieste che abbiamo raccolto anche nel viaggio di Raffaella Calandra questa settimana dedicato appunto a Bari e alla Puglia nei nostri GR riguardavano soprattutto la logistica, e non è un caso, la Puglia è una regione molto vocata all'export, sia come posizione geografica, si dice lo spirito levantino per distinguerlo da altri spiriti, al commercio, alle esportazioni, ha una proiezione naturale che le viene riconosciuta anche dall'Europa con il corridoio 8 verso la parte balcanica, e in questi giorni sappiamo quanto è delicata sia l'intera area, la parte che va dai Balcani verso poi la Russia e la parte di sbocco verso la Turchia. Mancano però le infrastrutture, ma non quelle generiche, i ponti, le autostrade, mancano porti, ma soprattutto lo snodo intermodale con la ferrovia. Lo dico perché non vogliamo restare nel generico. La Puglia è anche una regione che ha saputo fare degli investimenti importanti nel turismo, anche qui per distinguere rispetto a altre regioni che male e ancora malissimo si sono mosse sul turismo, penso alla Calabria ma anche alla stessa Campania da cui siamo reduci, abbiamo avuto una lunga discussione polemica anche col governatore Caldoro sulla gestione di Pompei, per quanto Pompei non pertenga alla regione ma allo Stato. E sull'incapacità che ha il nostro mezzogiorno delle volte di utilizzare la miniera d'oro del turismo. Ecco, questo ragionamento vale un po' meno in Puglia, sappiamo tutti del boom che ha avuto il Salento, il boom che ha avuto anche la parte, diciamo, il turismo di fascia alta tra Bari e Brindisi, e quindi sfruttando anche la parte logistica degli aeroporti, perché si può dire tutto, la Puglia è vero che è lunga, ma due aeroporti importanti come Bari e Brindisi li ha. Insomma, da questo punto di vista non si può dire che manchi l'infrastruttura aeroportuale. Arriviamo tra un attimo a questo. Nella giornata in cui le borse sono sostanzialmente stabili, meno 0,22%, Milano, Parigi meno 0,15%, Francoforte più 0,40%, euro quota 1,39,12%, ci occuperemo anche del scenario bancario, perché la Fondazione Monte dei Paschi oggi ha dato mandato a Morgan Stanley di collocare sul mercato il 12% del capitale del Monte dei Paschi in suo possesso, complessivamente aveva il 27%, incassando 350 milioni di euro. Ancora un po' di incertezza, anzi molta incertezza tra gli acquirenti, ci sarebbe il fondo di nuovo BlackRock e poi il fondo J.C. Flowers. E ricordo che BlackRock è già il primo azionista unico di Unicredit, ha comprato da poco il 5,2% ed è il secondo azionista di Intesa San Paolo con il 5%, per cui se fosse confermato avremmo un BlackRock che sulle prime 3-4, adesso Monte dei Paschi non è la terza, è la quarta banca italiana. La fondazione è scesa a questo punto, assieme anche alle vendite dei giorni scorsi, al 15%, deve arrivare a un livello ancora più basso, perché vorrebbe scendere intorno a una quota verso vicino al 5%. In questo momento resta la Fondazione Monte dei Paschi il primo azionista del Monte dei Paschi, il secondo è JP Morgan con il 2,5%, anzi sono i francesi di AXA con il 3,7%, poi JP Morgan con il 2,5%, poi c'è l'1% che è ancora la famiglia Leotti che ha venduto e Unicop Firenze. Il titolo come reagisce? Beh, insomma, male, non malissimo, meno 2%, è il titolo più debole oggi a Piazza Affari, assieme a Pirelli, meno 1,90%, e Gitec, anch'essa meno 1,90%, Buzzi Unici, meno 1,70% come Ferragamo, l'1,5% lo perde Luxottica e Media, 7,1,30%, Unipossai, CNH e le Generali. Chi va bene? Ripeto, poco mosso oggi il mercato, UbiBank più 1,30%, Azimut più 1,20%, Intesa San Paolo più 1%, e quindi Puglia, Bari, gli investimenti, anche perché devo dire che gli investimenti non sono tantissimi, più utilizzare meglio le risorse che abbiamo, gli investimenti nella logistica, la vicenda Monte dei Paschi e poi anche la Grecia. Perché ci occupiamo di Grecia oggi? Beh, non è capitato nulla di particolarmente clamoroso, ma dopo un rapporto arrivato la scorsa due settimane fa della rivista Lancet, che fotografava il danno sulla salute dei cittadini greci stremati da 5 anni di crisi, oggi c'è un'altra notizia, la fonte è l'Ocse, per cui non è un'associazione dei consumatori greci, ma insomma il 18% dei greci non può permettersi di comprare tutti i giorni il cibo di cui avrebbe bisogno. È, pensate, una percentuale superiore a quella che si registra in Cina e in Brasile. Allora, i greci hanno ridotto il loro reddito, che già non era altissimo, di 4.400 euro in media dal 2007 al 2012. Beh, sapete la nostra polemica, ma se questo deve essere il risultato della cura da cavallo imposta dalla Troica, che sta diventando quasi una parolaccia, Fondo Monetario, BCE e Commissione Europea, per tirare fuori i greci punirli per aver truccato i conti, beh, mi sembra che questa sia un'Europa che non vogliamo, con buona pace della Germania e anche di una Germania che continua a godere di questa crisi. Oggi la BMW ha fatto sapere che nel 2014 avrà 2 milioni di vendite, nuovo record a livello di utile, e quindi nessun gruppo al mondo ha avuto un inizio anno così buono, ha detto il numero della BMW. Bravi loro, però se si sta in Europa si sta tutti assieme. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Restiamo in tema di banche, perché saranno 128 le banche europee convocate a Francoforte il prossimo 26 marzo, tra cui ve ne saranno 15 di italiane. Vengono convocate per la cosiddetta Asset Quality Review, quindi andare a vedere tutti i crediti concessi, a che punto sono, quanti sono iscritti ancora come crediti, quanti invece sono difficilmente esigibili e quindi andranno messe come sofferenze. 128 banche europee, tutte a rapporto della Banca Centrale Europea il prossimo 26 marzo. E invece dalla Germania, Handelsblatt, che è il quotidiano economico-finanziario tedesco, critica duramente la Banca Centrale Europea. Non c'è giorno che in Germania qualcuno non rompa le scatole a Draghi, non gli è bastata aver perso il ricorso alla Corte Costituzionale. Dice: la Banca Centrale Europea è fuori controllo, forse fuori dal controllo tedesco, aggiungo io. C'è un'emergenza del personale, dei dipendenti, mancano le idee, c'è un'assenza di standard, non è sufficientemente pronta al suo ruolo di supervisore bancario. Allora, io sarò anche malizioso, però qualunque scusa è buona in Germania per far rinviare la Banca Centrale Europea al suo ruolo di responsabile unico, di garante unico del sistema bancario europeo. Non la vogliono, nonostante abbiano avuto problemi anche loro, Deutsche Bank, Commerzbank. E qualunque scusa, adesso manca pure il personale, manca anche la preparazione, mancano anche le idee, mancano anche gli standard, manca tutto. E invece sull'Europa Renzi oggi è tornato a dire che è fondamentale che si esca dalla visione in cui per l'Unione Europea per cui l'Unione Europea ci controlla, ci dà i compiti, ci fa le pulci. L'Unione Europea non è altro rispetto a noi. Trovo che sia assolutamente fondamentale che si esca da una visione per la quale l'Europa ci controlla i compiti o l'Europa ci fa le pulci. L'Europa non è un'istituzione altra rispetto a ciò che siamo noi. Non è colpa di un commissario europeo se ci viene detto che sulla giustizia civile siamo gli ultimi. Non possiamo pensare che l'Europa sia il nostro alibi. Così Renzi, che ha continuato, attenzione, i dati sulla disoccupazione sono atroci, anche quelli sui fallimenti. Occorre una riforma del mercato del lavoro, non è un argomento a piacere che possiamo affrontare oppure no. Su questo è intervenuto questa mattina, ospite di Radio 24, Giovanni Minoli, da Mix 24, il ministro al lavoro Giuliano Poletti, che ha detto, attenzione, la stretta sul cumulo delle pensioni è ancora da discutere, dobbiamo rendere le uscite dal lavoro più graduali ma anche più flessibili. Che i pensionati non possano più lavorare, lei pensa che sia giusto? Io direi di no, io credo che bisogna trovare delle modalità nuove che consentano ad ogni persona di avere una cosa da fare. Io questa la considero il punto di svolta concettuale di questo governo. Quindi devono poter lavorare anche i pensionati? Io lo dico no, perché il ministro della riforma della riforma deve stare a casa. Il ministro della semplificazione ha detto che non si può essere più cumulo fra chi lavora e la pensione. Ma allora bisogna che ragioniamo su cosa vuol dire cumulo. Bisogna decidere ad esempio qual è la modalità di uscita. Noi possiamo continuare a pensare. Quindi non è d'accordo su questa impostazione? Credo che si debba riflettere insieme. Io non dico sono d'accordo, non abbiamo discusso, quindi ma io in generale continuo a sostenere che ad esempio le modalità di uscita dal lavoro dovremmo immaginarle in modo più graduale e flessibile. Noi anche perché stiamo diventando un paese, il secondo paese più vecchio del mondo, quindi immaginare che pensione e lavoro in qualche forma non possono convivere penso che sia nel tempo molto difficile da sostenere. Sì, ma c'è un dato di tipo sociale. Ogni persona deve sentirsi utile a sé e agli altri. Non possiamo lasciare qualcuno che aspetta la fine, ma che razza di ragionamento è? Dobbiamo immaginare che tutti abbiano cose utili da fare. Vabbè, però adesso qui siamo veramente al paese di Bambi, cioè è chiaro che tutti possono avere cose utili da fare, ma ministro Poletti, lei ci deve dire che riforma del mercato del lavoro dopo quella della Fornero, che è stata per molti versi disastrosa, volete fare? Non basta con le dichiarazioni di massimi sistemi, mi sembra di stare con le giovani marmotte, c'è anche un nostro assistente che... Ho capito, tutti devono fare qualcosa per il bene del paese, non chiedere quello che tu puoi fare all'America, non chiedere quello che l'America può fare per te, chiedi quello che tu puoi fare per l'America, ma siamo alla retorica, andiamo avanti, diteci che riforma del mercato del lavoro avete in mente, perché dal Jobs Act ancora non si capisce, c'è un impianto di massima, andate a riempirlo di contenuti. E anche sulla spending review, adesso siamo in Puglia, vi leggerò alcune delle spese pazze della regione Puglia, così ci divertiamo. Devo dire che oggi i giornali sono pieni invece di quella, ma dedicherò la puntata domani dei rendiconti dei consiglieri della precedente giunta lombarda, cose pazzesche dentro, di tutto ammesso, matrimoni, addirittura c'è il consigliere leghista Galli che si era fatto rimborsare il matrimonio di suo genero, ma il genero non lo sapeva, aveva pagato il matrimonio, quindi quello si è preso 6.000 euro di rimborso, il genero ha pagato 6.000 euro di matrimonio, una famiglia veramente, no? Altro che parenti serpenti, vabbè. Ma adesso dico una cosa però, visto che si parla molto di spending review, prima se ne occupava anche Oscar Giannino, è vero che abbiamo tanti dipendenti delle forze di polizia rispetto a altri paesi, vorrei che fossero meglio utilizzati più che solo ridotti e vengono pagati anche molto poco, diciamo, i nostri carabinieri, i poliziotti e la Guardia di Finanza. Quello che invece mi manda in bestia è quanto paghiamo i dirigenti della pubblica amministrazione. Allora, hanno ragione gli ascoltatori che mi scrivono ogni giorno, guardi che la spesa rispetto al PIL della pubblica amministrazione italiana è in linea con quello degli altri paesi europei, anche pro capite. È vero, non abbiamo una spesa pubblica che è dimensionalmente in rapporto al PIL più grande di altri paesi, è che funziona peggio e che abbiamo gli impiegati pagati meno dopo i greci, i portoghesi e qualche spagnolo d'Europa, e abbiamo i dirigenti della pubblica amministrazione pagati di più di qualunque paese europeo. Allora, partiamo da un dirigente di seconda fascia. È pagato il 18% in più rispetto alla Gran Bretagna, il 7% in più rispetto alla Francia, e fin qua uno dice, vabbè, è che magari da noi dirigenti di seconda fascia hanno tanto da fare. Andiamo sui dirigenti di seconda fascia con funzione di coordinamento. È pagato il 15% in più rispetto alla Gran Bretagna, il 35% in più rispetto alla Germania e un 5% in più rispetto alla Francia. Dice, vabbè, magari è un problema di dirigenti. Di coordinamento, no, perché se vai sui dirigenti di prima fascia, quindi il penultimo livello prima dei capi dipartimento e dirigenti più alti, sono pagati da noi in media l'81% più che la Gran Bretagna, il 140% più della Germania e il 95% della Francia, tutti i paesi dove notoriamente la vita costa poco e giustamente i nostri devono recuperare quel potere d'acquisto, perché è noto che a Roma o diciamo a Bari, visto che siamo in Puglia, la vita costi molto più che a Parigi, a Francoforte, Berlino e soprattutto a Londra, dove non costa niente la vita. Andiamo sui dirigenti apicali, i top, là dove secondo me rischia di scontrarsi ogni tentativo riformista di Renzi, perché quelli non mollano il colpo, i capi dipartimento bloccano tutto, lo diciamo da anni, e nessuno dei ministri precedenti è riuscito ad averla vinta. A mio avviso andrebbero presi spoil system, quelli che sono lì da più di 3 anni, basta, si fa un rimescolamento di tutti. È un po' brutale, un po' tranciano, un po' semplicistico, non me ne frega nulla, tanto sennò non si riesce a fare nulla. Guadagnano il 50% più di quelli della Gran Bretagna, il 150% più di quelli della Germania, il 96% più di quelli francesi. Se vi sembra giusto, visto che abbiamo la pubblica amministrazione migliore d'Europa, andiamo avanti così. Ah boh, allora qualche rimborso pazzo ce l'ha pure la Puglia, perché qua giustamente il paese è molto lungo ma è molto corto delle volte, in realtà l'Italia è molto più unita di quanto non crediamo sugli sprechi. Su 9 rendiconti presentati dai consiglieri della Regione Puglia nel 2012, scusatemi, su 11 rendiconti, 9 erano irregolari, quelli presentati dai gruppi. Forse sugli altri 2 si sono sbagliati, mi viene da fare la battuta perché è una cosa incredibile, 9 su 11 irregolari. Allora, il gruppo Lista Civica Immoderati e Popolari ha incassato fino a 52.000 euro di contributi mensili. Tra i rimborsi è riuscito a inserire persino, sono tutti rimborsi che la Corte dei Conti ha definito non legittimi, perfino 8 euro per acqua e gelati acquistati in autogrill a Roma, non si capisce perché uno compra a Roma l'acqua e il gelato se la fa rimborsare dai pugliesi, oppure 800 euro di panettoni durante il periodo natalizio. Ma pure i panettoni, ma voglio dire, ma regalate qualcos'altro, cibo locale. Vabbè, il PD è caduto sui volantini stampati dal comitato primario per Bersani, 200 copie di uno stesso libro per la montata di 1600 euro che dobbiamo pagare noi. Cioè io non ho niente in contrario che il PD compri le copie di un libro, ma perché le devo pagare io? Si è fatto anche rimborsare l'acquisto dei quotidiani e la Corte dei Conti ha detto che no, non puoi farti rimborsare l'acquisto dei giornali. Anche il PDL si fa rimborsare l'acquisto dei giornali. La cosa strana, perché un po' di differenza da centrodestra e centrosinistra c'è ancora, che il PDL si è fatto rimborsare sempre ma 3 quotidiani: Tutto Sport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. E che cavolo è? È vero che c'erano gente pardo qua, tutti interessatissimi allo sport, quello del PDL, che è noto per l'attività politica, è fondamentale. Vabbè, 120 euro di carburante in media al giorno per i consiglieri e poi i 12.000 euro per consumazione in bar e ristoranti di La Puglia, prima di tutto, la Lista Civica che fa riferimento all'ex ministro Raffaele Fitto. Perfino dunque SEL è riuscita, quindi presidente della regione, è riuscita a inserire nella lista per i rimborsi durante le elezioni comunali di Lecce, Castellana Grotte, Gioia del Colle e Giovinazzo, anche 54 euro consumati in una pasticceria. Ma io dico, porca miseria, ma la pasticceria, ma pagatela tu la tua pasticceria. No, non ce la facciamo più su questo fronte. Lo so che la sala è depressa praticamente, vuole tirarsi una rivoltellata. In realtà non è così, perché gli ospiti che ho accanto sono ospiti che dimostreranno che c'è chi continua a fare impresa e come se la fa al sud. che è sbagliato fare il tunnel per un fascio, però che occorre anche puntare le poche risorse disponibili su iniziative vere e concrete. Allora, grazie al presidente di Confindustria Bari, l'ingegnere Michele Vinci, ha un'azienda che si chiama Massmec, che è uno dei leader nel settore dell'automotive, fornisce automazione per chi produce automobili e anche nel biomedicale. Infatti lei da poco ha investito, nonostante la crisi, 130 dipendenti, 16 milioni di euro di fatturato, più 12% negli ultimi tre anni, il 35% del fatturato è verso l'export. Grazie anche all'amministratore delegato di GTS Rail, che è un'impresa ferroviaria barese del gruppo GTS SPA, fa soprattutto trasporto merci, ecco perché mi interessa parlare di logistica, ha un fatturato di 81 milioni di euro e in aumento del 4%, siete i primi in Italia nella parte che riguarda la movimentazione merci e la cosiddetta, da questo punto di vista, intermodalità, i primi intermodalisti d'Italia. E grazie anche all'architetto Beppe Fragasso, che è amministratore e direttore tecnico presso Impresa Garibaldi, è una delle imprese dell'edilizia più affermate, e anche vicepresidente dell'ANCE Bari. Se mi fate un applauso ai tre ospiti, mi fate contento. Vi chiedo ancora un minuto di pazienza, perché ho il meteo e la pubblicità. La borsa ha chiuso con un calo dello 0,24%, poi torniamo in diretta da Italy, e quindi Fiera del Levante, bella questa sede, molto bella anche l'idea, appunto, che la Fiera del Levante si rinnovi, perché per anni siamo venuti ed era un po', diciamo, un po' della bre, mettiamola così. Meteo, pubblicità e poi di nuovo in diretta, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. A 7:36 minuti, di nuovo in diretta da Bari, dalla Fiera del Levante, dalla sede di Italy. Grazie anche agli ospiti, al pubblico qui presente. No, c'era una pubblicità che parlava di un problema serio come quello della prostata. Allora, io non voglio dire niente, però certi dirigenti della pubblica amministrazione dovrebbero ascoltarla bene, visto che sono inamovibili e lì ci sono anche, quando tu stai troppo a lungo su una sedia, hai problemi poi, diciamo, di decubito. Lo dico perché mi hanno scritto alcuni evidentemente toccati sul vivo, che dicono: ma come, che proposta è, dopo 3-4 anni tutti via? No, non è dopo 3-4 anni tutti via, ho detto che se vogliamo, o uno si mette in riga e allora accetta di cambiare la pubblica amministrazione, ma se dobbiamo vedere che poi i decreti attuativi non passano perché tra i ministeri non parlano, si rimpallano le leggi delega, tutto si blocca per mantenere il loro potere, azzeriamo, non ho nessun problema, tutti i vertici burocratici dei nostri ministeri, facciamo una riselezione, li spostiamo, alcuni li mandiamo pure via se sono lì da tanti anni, chi se ne frega, il paese avanti lo stesso, su. Non mi sembra che la pubblica amministrazione italiana, che ha 90 miliardi di euro di debiti con le imprese, abbia dato prova di essere efficiente come quella svizzera. Vedrete che il paese sopravvive, e mettiamo qualche giovane che guadagna un po' di meno, che rompe meno le scatole, che fa meno il burocrate di Stato. Non se ne può più, non ci sono alternative, non se ne vanno. Da soli un tacchino non ha mai anticipato il Natale, come dicono in americano. Vabbè, mi fermo se non mi arrabbio troppo. Allora, presidente degli industriali baresi, visto che lei opera in un settore come quello dell'automotive, ha fatto un investimento anche nel biomedicale, mi dica, che al di là delle difficoltà che ha tutto il paese, non solo la Puglia, che cosa manca in questo momento alla regione e alla città di cui industriali lei è presidente. Prego, Vinci. Sì, grazie e buon pomeriggio a tutti. Visto che lei mi ha tirato in ballo per la parte aziendale più che come presidente di Confindustria, per la parte della prostata, no, ho detto solo per il resto, no, la parte aziendale, insomma, è un pochettino diverso. Allora, per quanto riguarda le attività, diciamo, di meccatronica, perché poi alla fine mi occupo di meccatronica e quindi non parlo soltanto di me, credo che i giornali nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, ne hanno parlato in maniera abbastanza favorevole, perché effettivamente si è dimostrato che la meccatronica pugliese, barese in particolare, riesce a produrre, a fare degli ottimi prodotti, ad esportare e quindi ad avere un trend che tutto sommato anche in un periodo di crisi così forte riesce a mantenere abbastanza bene. Ma questo perché abbiamo case di produttori di componenti per automotive sull'area barese, che è una delle prime, se non la prima, a livello nazionale per importanza e per peso. Parliamo di componentistica di altissima precisione, di cambi automobilistici. Anche di investimenti recenti di multinazionali, cioè di grandi gruppi sia italiani che stranieri? Sì, ci sono investimenti non tanto in infrastrutture, in fabbricati, in immobili, quanto in ricerca e ancora in nuovi prodotti. Citiamo il motore elettrico che si sta per costruire qui a Bari, che coinvolge, oltre alle grandi imprese, coinvolge anche imprese locali, medie, ma che sono specializzate nella fornitura di linee di assemblaggio. Mi dico una cosa, ma lei che le è venuto in mente di investire poi nel biomedicale durante la crisi, visto che lei si occupava di altro? Diciamo che sul piano tecnico il passaggio non è poi così lontano. No, perché... Ma sul piano investo in questo momento perché? Diciamo che è partito da una scommessa con un amico, il quale diceva: voi che sapete fare automazione, vediamo se siete in grado di fare uno strumento che ci possa aiutare in questa operazione, per questo tipo di attività. Noi l'abbiamo preso per buono e abbiamo cominciato a studiare, prima, ripeto, quasi per scommessa, quasi scherzando, poi abbiamo capito che quello è un segmento in cui ci può essere uno sviluppo in futuro, non solo tanto in Italia ma a livello anche mondiale. Ecco, e questo per quello che riguarda, diciamo, l'andamento complessivo anche dei suoi investimenti. Però se qualche investimento anche per la posizione della Puglia geograficamente è arrivato, gruppi nazionali ma anche multinazionali, se un imprenditore come lei si butta anche nel biomedicale, vuol dire che al di là della crisi del distretto del divano, di cui molte volte abbiamo parlato, di altri distretti industriali di questa regione, il fermento c'è ancora. Allora mi dice lei, rispetto a un imprenditore, non dico della Carinzia perché ne ho, ma rispetto a un imprenditore, diciamo, normale europeo, che cosa vorrebbe avere di normale, non di eccezionale, non un sud che ha bisogno di gestire una perenne emergenza, ma di cose normali? Vabbè, diciamo che le aziende che hanno investito e che continuano ad investire è perché, ancora una volta, scommettono su se stesso, hanno anche delle condizioni che la stessa istituzione regione, il governo regionale, è riuscito pure a favorire, anche favorendo investimenti stranieri, ma ha messo anche le aziende locali in condizioni di poter utilizzare incentivi sull'innovazione, quindi spingersi verso l'internazionalizzazione. Che cosa manca? Bah, quello di cui ci lamentiamo molto è la parte infrastrutturale, ma nel caso specifico, se faccio riferimento agli aeroporti, l'ha detto lei, gli aeroporti siamo abbastanza ben messi, sia Bari e Brindisi come aeroporti passeggeri, in grande sviluppo, in grande evoluzione ed ampliamenti. Taranto come trasporto cargo, e questi mesi si sta parlando di dedicare, di farlo diventare un hub per il cargo per tutta l'Italia, ma almeno per l'Italia centro-meridionale, perché avendo già una pista ben attrezzata per trasportare le fusoliere dei Boeing da Taranto fino in America, Perché vengono prodotte a Grottaglie. Esatto, no? potrebbe essere utilizzato anche in maniera anche, dico, i prodotti agricoli, perché sono così ben accetti, ben graditi da tutte le parti. Beh, se uno ha un cargo che gli riporta in giornata da Bari a New York, può utilizzare. Siamo a Italy, è l'edificio più visitato a New York dopo l'Empire State Building, è la sede di Italy a New York. Quello che invece, come infrastruttura, gli aeroporti sono messi bene, diciamo. Sì. Per non dire sempre che al sud manca un'infrastruttura. No, assolutamente no. Le autostrade, mi sembra. Le autostrade non ci lamentiamo. La cosa che invece è messa veramente male sono le ferrovie. Ecco, adesso io so già che l'ufficio stampa di Moretti mi chiamerà. Non ce l'ho con le ferrovie dello Stato, però possiamo anche criticare o mettere in evidenza alcune lacune, oppure no? Prego, io non me la prendo con Moretti. No, è Moretti che se la prende con me di solito. No, io credo che ci sta un qualcosa di così macroscopico. Probabilmente anche noi pugliesi ce ne siamo accorti un pochettino tardi, ma mentre l'alta velocità si sviluppava sulla fascia tirrenica, mentre il mio omologo di Napoli, da Firenze a Napoli, stavamo insieme con Confindustria a Firenze per un convegno sulle città metropolitane, finiamo alle 2. Lo moderavo io. finiamo alle 2 e dice io ho il treno alle 3 e alle 5 sto a Napoli, io da Firenze per arrivare a Bari sono partito verso le 6 e mezzo, le 7 in aereo e sono arrivato alle 11 la sera. Questa è la dimostrazione che i passeggeri, il turismo non può svilupparsi, però peggio ancora ci sta la parte merci. A Taranto è stato fatto un investimento grandioso, non so di quanti milioni, centinaia di milioni di euro, nella ristrutturazione, nel rifacimento del porto di Taranto. Bene, ci sono state compagnie asiatiche, Evergreen, perché ricevono le navi portacontainer dalla Cina, dall'India a Taranto. L'obiettivo era, il programma era, arrivano a Taranto, li smistiamo in tutta Europa. Invece arrivano a Taranto, non c'è un raccordo autostradale, non c'è una ferrovia che li porti manco fino a Milano, non in Europa. Allora chi è penalizzato? Primo l'Europa, perché le merci devono fare il periplo dell'Africa per andare ad Amburgo e ad Hannover per portare le merci, per cui è tutta l'economia europea che è danneggiata. Poi è danneggiata l'Italia, poi è danneggiata la Puglia, però io lo metto quasi in ultima posizione, anche se siamo i più diretti interessati, perché se viene meno il porto di Taranto viene meno anche parte dell'economia che attualmente si è sviluppata. Bravo Presidente, perché sennò si fa sempre un po' di generalizzazione. Gli aeroporti non sono un problema, le autostrade diciamo non sono il tema, so tu, qualcuno storce la bocca in sala, diciamo, ho capito, però il vero problema è il trasporto passeggeri e soprattutto il trasporto ferroviario delle merci. Allora, ieri ricordavamo che nella classifica dei 10 primi porti europei non ce n'è manco uno d'italiano, e a me sta cosa che né Genova né Gioia Tauro né Taranto possono ambire ad essere nella classifica dei primi 10 porti per movimentazione container in Europa, qualcosa la dice. Non sto facendo una critica solo alle ferrovie dello Stato, però il tema del trasporto merci dovremmo affrontarlo prima o poi, se continuiamo a perdere diciamo tonnellate trasportate per chilometro ferroviario in questo paese. Allora, una nota prima del traffico, perché poi su questo vorrei tornare con gli altri ospiti. Mi chiede un ascoltatore, dopo quello che ho detto sui dirigenti, perché non me ne vado via anch'io dal Sole 24 Ore, così entro un giovane che costa la metà di me, perché faccio demagogia populista. Le faccio presente, lei ha ragione, le faccio presente che io sono con un contratto licenziabilissimo, lavoro nel privato, se non ottengo risultati, tendenzialmente, visto che non c'è un rapporto di altro genere che non professionale, il Sole 24 Ore mi manda via, non è detto che non lo faccia, anche perché se continui a avere certi ascoltatori poi bisogna vedere anche i risultati. Comunque dai, traffico, e poi invece vorrei capire ancora più nel dettaglio cosa vuol dire per chi fa impresa qui non avere una logistica integrata dal punto di vista ferrovia o gomma, rotaia, come dite voi in genere. Minuti, chiedo scusa per l'errore tecnico, avete sentito un po' di così caos nell'ingresso della sigla. Allora, adesso la borsa la faccio, lo dico anche a chi mi scrive, la borsa ha chiuso, ragazzi, però la borsa, meno 0,29% oggi, un attimo, ma dico, se uno ha investito così tanto, guarda anche il computer, noi ve lo diamo l'aggiornamento, però, senta una cosa, Alessio Mucciaccia, lei è numero uno, oltre che l'Associazione dei Trasporti di Confindustria, di un gruppo che, come ricordavo prima, ha fatto dei numeri importanti, 80 milioni di fatturato, 130 dipendenti. Mi racconta nel concreto che cosa vuol dire lo scenario che ha illustrato il Presidente Vinci per voi quando lavorate? Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Mi faccia dire che il problema della Puglia è sicuramente un problema infrastrutturale, in quanto basta ricordare come la linea adriatica abbia una strozzatura fra Termoli e Lesina, dove modello borbonico nell'Ottocento ancora si viaggia a binario unico. In realtà il problema infrastrutturale è un problema annoso che riguarda l'Italia, in quanto i profili ferroviari e quindi quelle che sono le possibilità di trasportare merci su ferrovia è veramente limitato rispetto al resto d'Europa. In realtà mi sento di dover sottolineare che il problema infrastrutturale è uno dei problemi, ma non è il problema, in quanto veramente annoso è il problema della gestione della politica dei trasporti in questo paese. Io volevo citare alcuni numeri, ovvero in Italia abbiamo 70.000 partite IVA di autotrasporto, di cui il 92% ha meno di 5 dipendenti. Allora, la cosa drammatica in Italia è che queste 70.000 aziende fanno la politica dei trasporti nel paese. C'era un articolo questa mattina sul Sole 24 Ore dove appunto si parlava del fatto che negli ultimi 20 anni non si riesce a cambiare le elargizioni che lo Stato fa a mani larghe al settore, dove nel 2013 avevano toccato appena 1,2 miliardi di euro. Questo ha generato il fatto di avere una industria logistica, perché devo ricordare che la logistica non è solo al servizio delle imprese, la logistica è un'industria, la logistica rappresenta l'11% del PIL mondiale. Se si pensa che la logistica sia solamente un veicolo per trasportare le merci e le persone, ci siamo sbagliati di grosso. Rotterdam, da Rotterdam escono 200 treni al giorno di merci che sono dirette in tutta Europa. Da tutti i porti di Bari, Taranto, Brindisi, Gioia Tauro, Napoli e Salerno escono zero treni. C'è questo... No, mi scusi, non ho capito. Rotterdam è inarrivabile per noi. Sì. Quanti treni escono dal porto di Rotterdam al giorno? 203. E nel nostro sud? Zero, manco uno. Cioè da Gioia Tauro non esce un treno con un container? Neanche uno con un container. Neanche da Taranto? Neanche da Taranto. E perché? Mancano i binari, mi dirà lei. No, non mancano i binari, manca la politica dei trasporti. Le cito un altro numero. Nel 2006 l'Italia ha prodotto 73 milioni di treni chilometri, cioè tutti i treni merci hanno percorso 73 milioni di chilometri. Nel 2013, cioè l'anno appena trascorso, ha chiuso a 43 milioni. Cioè c'è una volontà politica, scientifica, di non fare ferrovia in questo paese. Allora, io la ringrazio perché intanto adesso lei, oltre a farmi avere le rampogne di Moretti, mi farà avere anche le rampogne degli autotrasportatori, che sono grandi ascoltatori di radio, ma non ce l'abbiamo con i camionisti. Però se parliamo di tutto, non è che parliamo solo delle spese della politica, lo dico a tutti quelli che poi si piccano. Però io trovo impressionante, ma allora le ferrovie dello Stato però potrebbero anche non avere un interesse diretto, perché ne ho discusso molte volte, cioè, non è che fai un investimento sui binari per le merci. Che cosa manca? Liberalizzare il settore? Assolutamente. Metterlo in concorso, cioè i privati, perché giustamente poi Moretti mi può rispondere, va bene, ma se non c'è l'interessamento dei privati, se io ci vado a perdere, sono una SPA e devo chiudere, tendenzialmente inutile, per cui non vado a investire laddove non ho un vantaggio economico. Allora, il problema è questo. L'ingegner Moretti fa benissimo il suo lavoro nel momento in cui devi risanare i conti di Ferrovie dello Stato. Il problema è che, avendo dimezzato il cargo in Italia, la norma, per quanto l'Italia sia aperta, si scontra nei 1000 cavilli italiani che non consentono alla fine di fare ferrovie in Italia. Ma le faccio un esempio. Lei mi ha citato prima il ministro Poletti rispetto al Job Act e necessità di fare lavoro. Ma lei lo sa che noi da 2 anni a questa parte non possiamo assumere macchinisti anche di 60 anni perché non hanno il diploma. Cioè uno ha fatto il macchinista per 35 anni nella sua vita, a un certo punto arriva una norma che dice che se non hai il diploma non puoi fare più il ferroviere. Questo che va a fare nella vita sua? Non può fare nulla. Ma quindi la soluzione per avere anche, diciamo, delle proposte, visto che io penso che sia inaccettabile quello che lei ha appena raccontato, e cioè che da tanto Gioia Tauro, Napoli, non esca un treno carico di merci nel 2014, mi scrive un ascoltatore che immagino essere esperto del settore, che un container dall'India, se arriva a Milano via Genova, impiega 28 giorni, se arriva a Milano via Rotterdam, ne impiega 16. Le risulta? Possibile, assolutamente sì. È miseria. Cioè, è più facile mandare un container dall'India verso Milano attraverso Rotterdam che attraverso Genova. Vorrei capire, vabbè. Sono delle cose di cui non mi capacito. Però la soluzione quale sarebbe in questo momento? I privati sarebbero disponibili a mettere i soldi? Perché le FS possono anche dire, vabbè, facciamo entrare i privati, fatevi concorrenza, prego. Assolutamente sì. I privati hanno un grandissimo desiderio di investire in questo settore. In realtà è estremamente complesso in Italia, per cui è fondamentale dare certezza delle norme al settore della liberalizzazione. Anche perché soldi per nuovi binari non ce ne sono. Soldi non servono soldi per i binari. Io non voglio fare innervosire il Gruppo Ferrovie dello Stato, però il Gruppo Ferrovie dello Stato riceve 120 milioni di euro all'anno per il servizio universale per treni verso il sud che non fa più. Questi denari possono essere utilizzati per far marciare anche i treni dei privati? Non vogliamo soldi? Benissimo, ma eliminiamo i fattori distorsivi della concorrenza. Perché? Allora, la nostra azienda ha il vantaggio di togliere 65.000 camion dalle strade. Approccio inquinamento fantastico, l'Italia questo non lo vuol fare. Allora, restate con noi, grazie tanto agli ospiti, poi voglio parlare anche del turismo, non mi sono dimenticato del tema, e anche del settore costruzioni. Intanto c'è il GR24 349 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. 18:09, riprende Focus Economia in diretta da Bari, grazie dalla sede di Italia Bari. Sono arrivati decine di messaggi di operatori o di imprenditori che lavorano chiaramente con logistica. Non posso leggerli tutti, né posso continuare sul tema, ma faccio notare che mi fanno un imprenditore di Padova mi scrive che lui importa dall'India, praticamente dall'arrivo della nave in porto alla Spezia, al momento in cui i container arrivano nel suo stabilimento, dalla Spezia a Padova passano 22 giorni, in Polonia quando arrivano ci mettono 11 giorni e molti fanno notare che c'è, oltre che un problema infrastrutturale, c'è un problema doganale. Non so se ci sia ancora il rappresentante della dogana qui a Bari, l'elemento burocratico una volta ancora per lo sdoganamento delle merci. Vorrei però chiudere questo approfondimento e poi passare alla borsa con chi appunto si occupa dei costruttori di Bari, visto che è vicepresidente dell'ANCE di Bari. Tra l'altro avete deciso, Fragasso, di se ho ben visto la famosa Punta Perotti, quell'edificio mostro abbattuto, oggi sui giornali lo farete di nuovo degli insediamenti abitativi. Cosa farete di Punta Perotti? Diciamo che innanzitutto buonasera a tutti. Diciamo che innanzitutto con questa delibera che è passata ieri si sancisce che la zona di Punta Perotti non è inedificabile, che non vuol dire che è immediatamente edificabile ed è edificabile tal quale. Noi costruttori abbiamo mal sopportato l'abbattimento di Punta Perotti, perché comunque non è bello vedere demolire ciò che le mani, ciò che gli uomini hanno costruito. Diciamo che non era neanche bello vedere Punta Perotti, però quando non facevo lungo. Diciamo che i costruttori che l'hanno costruita hanno accettato di buon grado questa sentenza dal punto di vista estetico, e giustamente però, perché c'erano delle leggi che gliel'hanno consentito, capiamoci, non hanno fatto una costruzione abusiva, sono stati poi risarciti di quello. Ma diciamo che questa è una questione chiusa. Quello che invece è bello e importante è che nel programma di rigenerazione che loro hanno presentato si triplica il parco davanti, quindi ci sono 20 chilometri di costa verde che viene fatto e gli edifici vengono spostati, arretrati. Diminuisce di circa il 40% la cubatura e soprattutto si stende la cubatura, quindi non ci sono più edifici alti tal quale quelle vele di Punta Perotti, ci sono degli edifici bassi. Io auspico, proprio perché per il rispetto che portiamo alle costruzioni, a chi fa questo lavoro, che questo tipo di progetto possa andare avanti. Senta, con lei vorrei toccare anche il tema, visto che lei ha partecipato per esempio al Museo Archeologico di Taranto, lavorate anche molto sul turismo oltre che la riqualificazione urbana. Vorrei toccare anche il tema del turismo. Perché lo dico? Perché lei poi è anche presidente della Garibaldi, se non ricordo male, direttore tecnico della Garibaldi Costruzioni, che è uno dei gruppi principali qui in Puglia nel settore costruzioni. Allora, è chiaro che edificare ancora, soprattutto in un sud spesso sventrato dai cattivi piani, non parlo solo dell'abusivismo, parlo anche dei cattivi piani di sviluppo edilizio, mi sembra una follia. Noi dobbiamo riqualificare il brutto che è stato costruito e costruire di meno, se vogliamo parlare di turismo. Chiaro che non sto parlando della zona industriale di Bari, però su questo la Puglia ha dei casi virtuosi, penso al Salento, anche se alcuni ascoltatori ci dicono che ciò che è di pertinenza dei comuni, per esempio lo smaltimento rifiuti, è ancora uno stato non accettabile. Penso alla zona tra Bari e Brindisi, dove si è sviluppato un turismo più di lusso, se vogliamo, masserie, ma non solo, anche grandi alberghi, campi da golf, tutto ciò che comunque sfrutta la presenza dell'aeroporto di Bari e di Brindisi. Che cosa manca sul fronte del turismo? E soprattutto voi non potete chiedere incentivi. Renzi al massimo ha detto che arriverà un piano per edilizia scolastica, vedremo poi quali comuni pugliesi sono virtuosi, quindi potranno utilizzare questi soldi, ma cosa vi manca? Guardi, le cito immediatamente una proposta. Qualche giorno fa l'ex ministro dei beni culturali è stato a Taranto, Bray, e si è fatto in una sede di un ex convento, si è fatto un convegno sul recupero della città vecchia di Taranto, perché la città vecchia di Taranto non riesce a decollare, a differenza per esempio di quella di Bari, che ha avuto un ottimo piano urban e ha avuto un ottimo decollo. Nella città vecchia di Taranto si stima che siano necessari 250 milioni per recuperare la città di Taranto. Bene, noi abbiamo detto al pubblico: mettete voi un terzo, 80 milioni, 170 lo mette un consorzio di imprese private e noi cominciamo a rigenerare il tessuto di Taranto. E così via, ci sono una serie di borghi su cui noi siamo intervenuti. Voglio citare sicuramente anche quello di Bari, dove la mia impresa ha lavorato e continua a lavorare, dove iniziative private hanno dato sviluppo e hanno dato soprattutto vita e rigenerato questi borghi. Siamo assolutamente d'accordo, noi non siamo secondi alla Germania quando dice che nel 2020 non ci sarà sviluppo, cioè consumo zero di suolo. Possiamo accettare anche questo, non ci spaventa questo tipo di sfida. Quello che noi diciamo invece è che per esempio sulle periferie, diciamo che per esempio su tutta l'edilizia degli anni 50-60 c'è da fare un progetto di rottamazione generale, perché è un'edilizia assolutamente insicura. Noi tutti quanti noi ci poniamo il problema di quale presa asciugo utilizziamo a casa quando attacchiamo il televisore o il frigorifero, ma non ci poniamo il problema della pericolosità dei nostri edifici, e invece per noi è un problema all'ordine del giorno. E quindi il piano casa su cui sta lavorando il governo, secondo voi che cosa dovrebbe avere diciamo come elemento caratterizzante? Ma il piano casa, come il piano delle scuole che lei ha citato, dovrebbe avere la sicurezza. Noi riteniamo che la sicurezza delle nostre abitazioni sia il fattore fondamentale, e lo dico senza tema di smentita, perché abbiamo analisi fatte in tal senso che buona parte del patrimonio edilizio di quegli anni, cito per tutti una percentuale che è intorno al 25-30%, che andrebbe rigenerato. Questo darebbe da lavorare molto più che andare a costruire il nuovo. Ecco, quindi piano casa dove si vanno a mettere in sicurezza o rigenerare, come dice lei, gli edifici, vale anche per certe oscenità che sono presenti anche purtroppo nella costa pugliese ogni tanto. Piano scuola per mettere in sicurezza gli edifici scolastici, tutto questo senza occupare un metro quadro in più di suolo, e ci tengo molto a sottolinearlo perché, ripeto, insomma, l'antropizzazione di questo paese mi sembra che ormai sia un dato di fatto, e da quel punto di vista però anche un piano più organico sul turismo, se posso permettermi, fermo restando, visto che prima criticavamo le spese dei consiglieri regionali pugliesi, che la Regione Puglia in questi anni si è mossa sul fronte turismo meglio di come hanno fatto altre regioni del nostro mezzogiorno. La parte che riguarda Bari, la Puglia, termina qui. Faccio solo notare una cosa che forse prima era sfuggita. Quando ricordavo che ci sono imprese dinamiche e si riesce a fare impresa anche nel nostro mezzogiorno, faccio notare che la Puglia con 380.000 aziende ne ha un terzo della Lombardia, ma siamo al doppio di quelle presenti in Liguria e in Abruzzo, il triplo di quelle presenti in Trentino e in Umbria. Quindi stiamo parlando di una realtà, in realtà, dove nonostante la crisi, la diffusione della piccola e media impresa è ancora presentissima. Certo, l'anno scorso ne sono nate 24.000 di aziende, ne sono morte, hanno chiuso 27.000 aziende, e quindi vuol dire che ogni giorno, l'anno che si è appena chiuso, per 60 imprese che nascevano ne morivano 76. È chiaro che con questa emorragia, se non si mette un freno, non si va da nessuna parte. Grazie anche al direttore tecnico della Garibaldi, nonché vicepresidente dell'ANCE Bari, Beppe Fragasso. Allora, la borsa, dicevamo, con un po' di ritardo, ma oggi non è stata una giornata di quelle indimenticabili: meno 0,20% Milano, meno 0,12% Parigi, più 0,30% Francoforte, al di là del Monte dei Paschi, di cui parleremo tra un attimo, UbiBanca più 1,17%, Azimut più 1 come Intesa San Paolo, Atlantia più 0,80%, Ansaldo e CTS più 0,60% come Mediolanum, mezzo punto lo guadagna Finmeccanica, ma anche Tenaris. Finmeccanica che è salita anche in attesa dei conti 2013, poi vedremo il piano di eventuali dismissioni. Sulla Popolare di Milano, che poi ha ritracciato un po', faccio notare che resta l'interesse degli investitori per un eventuale aumento di capitale della banca dopo le dichiarazioni dei numeri 1 della Popolare di Milano. Mercati tutti attendisti, perché come raccontavamo ieri c'è attesa per capire se la Banca Centrale Americana taglierà ulteriormente di altri 10 miliardi l'iniezione di liquidità che ogni mese mette in campo. A questo punto l'America è già scesa da 65 miliardi di liquidità che viene immessa ogni mese. nel mercato americano. Per quello che riguarda invece i titoli in calo, Pirelli meno 2,11%, sempre l'effetto dell'ingresso dei russi di Rosneft e, come dicono alcuni, anche dell'uscita di chi speculava sul titolo. Telecom Italia debole, meno 1%, c'è attesa per i nomi nei prossimi consigli di amministrazione, mentre per quello che riguarda Snam Rete Gas, il titolo poi ha recuperato meno zero, ma ha chiuso con un meno 0,60%. Questo dopo il piano industriale e la firma anche del memorandum con la Cassa Depositi e Prestiti per il trasferimento di una quota della Cassa in TAG. Ancora segnalo Luxottica meno 1,30, GTEG meno 1,80, Ferragamo meno 1,80 anch'esso, Buzzi Unici meno 1,90 e poi Monte dei Paschi meno 2%. Sara Monaci del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Sara, a quanto è scesa la fondazione? Perché dunque ha dato mandato a Morgan Stanley di piazzare sul mercato quasi il 12% del capitale in suo possesso, ne aveva complessivamente 27, e ha incassato 350 milioni di euro. Si è saputo se è entrato anche BlackRock, che già è il primo azionista unico di Unicredit e il secondo di Intesa San Paolo? Allora, le voci si rincorrono in questo senso. Chiaramente la fondazione per il momento ha dato mandato a Morgan Stanley, quindi non è ancora ufficiale l'ingresso di fondi. Chiaramente il fondo di investimento statunitense BlackRock sembra il più interessato all'acquisizione. Probabilmente si tratta comunque di un'acquisizione minoritaria, dovrebbe essere entrato appunto con una quota che al massimo raggiunge il 12%, perché la strategia della fondazione guidata da Antonella Manzi è proprio quella di vendere a pacchetti in modo tale che nessuno abbia un controllo o una quota di riferimento piuttosto pesante, e così la diluizione possa avvenire gradualmente e quella quota piccola che la fondazione intende preservare all'interno della banca non diventi assolutamente minoritaria e assolutamente irrilevante. Insomma, vorrebbe mantenere un pacchetto probabilmente che fa dal 5 al 10, adesso ancora al 15%, quindi le vendite proseguiranno. La strategia però è quella di vendere sempre a piccoli blocchi. A piccoli blocchi, per cui alla fine il 5-7% della fondazione sia ancora una quota di peso, diciamo, all'interno. Adesso peso è scesa... o quantomeno peso... la possibilità di sedersi al tavolo e poter dire la propria. Diciamo che si rincorrono le voci molto ottimistiche di una svolta della banca, tradizionalmente ancorata a Siena e partecipata, credo come ultimo caso in Italia, da una fondazione territoriale che aveva il controllo e la maggioranza assoluta, lo ricordo, che superava il 50%. Adesso si parla addirittura dell'ipotesi di una public company, quindi un azionariato, cioè, diffuso. Cioè tantissimi piccoli azionisti, appunto un azionariato diffuso senza che nessuno abbia quote, diciamo, da minoranza di blocco o da maggioranza relativa. Sì, esattamente. Io credo sia ancora tutto da decidere, anche perché ricordo che dopo la diminuzione della presenza della fondazione poi sarà necessario l'aumento di capitale, quello auspicato dal presidente Profumo, dal presidente del Monte dei Paschi, per poter poi restituire i famosi Monti Bond di cui ha abbondantemente usufruito la banca. Quindi in questo aumento di capitale poi sarà lì da vedere chi sarà davvero il nuovo azionista di peso, se ce ne sarà uno solo, se ce ne saranno di più. La public company, diciamo, ad oggi farebbe quasi immaginare un nuovo modello positivo e anglosassone, passami il termine, internazionale della banca. Ecco Sara, un'ultima domanda, prego. Sì, sarebbe quindi proprio un cambiamento radicale culturale per il Monte dei Paschi. Un'ultima domanda, visto che la fondazione adesso è al 15, ma vorrebbe andare al 5-7, le prossime tappe quando arriveranno? Quando potrebbero arrivare? Questo è il blocco che ha portato la fondazione a scendere dal 27 al, cioè un 12% al 15%, al 15% adesso, esatto. Sì. E la cosa importante di questa vendita è sostanziale, la cosa importante è l'azzeramento dei debiti, perché con 350 milioni sostanzialmente si è allineata al debito che aveva. Ora il punto è non soltanto avere dei debiti, ma riuscire a recuperare anche qualche risorsa, che ricordo nel tempo si sono perdute per sostenere gli aumenti di capitale che sono serviti a acquisire Anton Veneta, oggi poi agli onori della cronaca per le inchieste della procura. I prossimi passaggi sono obbligati, dovremo per forza arrivare ad una vendita entro giugno, perché poi da lì si passerà all'aumento di capitale che il consorzio di garanzia delle banche chiede di fare, certo, appunto entro l'anno. Quindi comunque Antonella Manzi ha come scadenza, una scadenza ravvicinata, la vendita del prossimo blocco sarà comunque, io credo, nell'arco di un mese. Sì, perché la scadenza di fine maggio, inizio giugno viene mantenuta. Grazie a Sara Monaci del Sole 24 Ore. Allora, avevo promesso un approfondimento sulla Grecia, non abbiamo tutto questo tempo, ma siccome Vittorio D'Aroldo è in collegamento, facciamo un'anticipazione. Vittorio D'Aroldo, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Senti, tu che in Grecia vai spessissimo, e non in vacanza, ma per il giornale, sì, magari anche in vacanza, però insomma mi riferisco alla parte professionale. Il rapporto dell'OCSE di oggi, che dice che il 18% dell'OCSE, non ripeto di un'associazione di ONG, dice che il 18% della gente in Grecia non riesce a comprarsi tutti i giorni il cibo di cui avrebbe bisogno, con una percentuale superiore a quella del Brasile o della Cina, quindi è messa peggio la popolazione greca del Brasile e della Cina, che fa il paio, a mio avviso, con Lancet, che è la Bibbia della medicina anglosassone, che nel numero di febbraio ha fatto un approfondimento sulla situazione sanitaria in Grecia, mostrando come il tasso di mortalità tra il 2008 e il 2012 sia cresciuto in modo significativo nella fascia di popolazione più anziana, con picchi del 12%, e chi ha più di 80 anni addirittura al 24%. Tutto questo fotografa una situazione che tu vedi o, diciamo, fa effetto, fa notizia, ma in realtà la situazione in Grecia è leggermente più sotto controllo, nel senso che poi non ne parla nessuno, noi le diamo queste notizie ma c'è il silenzio. Prego Vittorio. Sì, dunque hai ragione, nel senso che effettivamente l'OCSE dice che il rapporto del 2008, quindi nel 2008 la spesa complessiva per la protezione sociale e sanitaria in Grecia è diminuita del 18%, quindi è evidente che i tagli alla spesa pubblica hanno comportato anche dei tagli appunto nella protezione sociale e sanitaria, questo è evidente, è stato quindi un doloroso taglio a queste spese che erano insieme a quelle che appunto noi tutti abbiamo, di cui abbiamo parlato, quindi alle pensioni di invalidità false, ai falsi ciechi, agli sprechi, sì, eccetera. Punto, cioè, un conto è combattere la burocrazia e anche l'evasione fiscale, che in Grecia era al record, e i costi della pubblica amministrazione. Altra cosa è scoprire che tra il 2008 e il 2010 la mortalità infantile, qui sembra di essere tornati a una visione della Dickens della società, è aumentata in Grecia del 43%. Ma è questa la ricetta della Troika, Vittorio? Sì, cioè la ricetta della Troika è stata, come sempre, molto, quando tu sei sotto pressione devi fare delle scelte molto dure, molto drastiche, quindi quando devi tagliare, tagli con l'accetta, e quindi, come ti dicevo, una parte è stata quella, la parte giusta, cioè quella degli sprechi, delle situazioni, delle truffe, vere e proprie truffe, delle situazioni che erano lì incancrenite da anni. In altri casi invece questo è stato proprio una riduzione, i famosi tagli lineari, se ti ricordi, no? Che tagliavano perché non si riusciva più a calibrare, a cercare le cose, diciamo, su cui effettivamente dovevi intervenire, quindi quelle piccole cose su cui non riuscivi a fare questo lavoro di sensibilità o comunque di fino, a un certo punto la Troika ha detto vabbè, qua bisogna tagliare, tagliamo in maniera lineare, e quindi ha colpito anche queste cose con questi effetti drammatici, per cui in molte casi appunto, non so, i greci hanno perso 4.400 euro di reddito medio, sono medie naturalmente, come tu sai, sempre da prendere con le molle, però il dato dell'OCSE è assolutamente ponderato, ecco, non sono... Allora, noi torneremo a parlare con Vittorio D'Aroldo, grazie intanto al collega del Sole 24 Ore, da Sebastiano Berisoni veramente tutto, un ringraziamento a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi, e per l'assistenza in redazione anche a tutta la parte tecnica della radio. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Grazie, bye. Radio 24. La passione si sente.